Hola, Peccale. Hola, attenzione. Peccale. Ciao Doni. Chi è? Indovina indovinello, si fa l'uovo nel cestello. Sì, buonasera Gianni. Questo, vabbè. Tutto bene? Come so va? Io so cos'è per noi. Ma io sono comprenditi, Tasina. Com'è che non mi comprendi? Perché non mi capisci? Adesso sì. Ma poco fa non riuscivo a capirti. Io sto parlando normalmente, Adesso ti ho capito bene. Andiamo, dai. La vecchiaia cosa fai? Non riesco a tutto, ma non so. Aia, con dolore sia alle gambe. Ma no, non si è compreso nulla. Dico rumori. Perché c'è l'altro apparato acceso, l'ho acceso, ma era su 23 in estate. Perché li accendo tutti la sera per scaldare. Andiamo. Dai. Però stanno un giorno e là si è asciugato. Oh, non entra di più nessuno. Oh, ieri sera sono stato tutta la sera breccato. No, io sono arrivato tardi qua, Si è accompagnato a mio nipote in palestra, poi accompagna lui e poi ho accompagnato l'altra signorina alla palestra. E poi sono tornato per la mia nipote per aspettare quando uscivo. Quando si arrivi da noi che è l'ultimo con quattro. Stanno impegnato arrivare là. Stanno andando in figliola, accompagna la bambina e poi posso prendere il ragazzo. Tocca a me andare. E noi perché cosa ci sono? Dopo che vanno in pensione devono lavorare, devono fare qualche cosa, non si devono fermare. Infatti, e non perché cosa ci sono, infatti a me devi impegnare, non lo gioco. Sì, vabbè, una voce si può fare, io l'ho immaginato che è uscito, perché se no saresti entrato, che chiamato tutt'ora, A me mi tocca lunedì, giovedì e il venerdì mi tocca accompagnarlo, invece il venerdì mi tocca accompagnarlo e ritirarlo, quasi talmente un'oretta. Quindi sei impegnato. Io pensavo che era una volta solo. C'è proprio un impegno là. E vabbè tu. Caro Marco di voi, dai. Ma usi una macchina a consuma gasolio. Se no le fornitori come fanno a lavorare? Se non lo consumi non è niente. Senti, io neanche danni c'è con Bonelli. Vabbè. Perché io ne metto quelli di gas? E gli piede lo stesso 23 euro massimo. No, meno male già consuma poco con la macchina, le basi 136, 134, 139, giornata, settimana, dipende da come te la tratto. Vogliamo dire 139, non sto capendo. 6 chilometri, che faccio? No, a zero e mi fa quei chilometri lì. 136, 134, 139 la che brucia. Ah, ho capito, chilometri a litro stai dicendo. Adesso ho capito, non stavo capendo. No, a settimana mi fa 134 chilometri, un bel di bruci, 139 le fasi. Pure usato 40, ciò che arrivi. Ma cosa metti il pieno, no? No, quando arrivo io alla tacchetta, all'ultima tacchetta che ho all'inizio, tra, come si chiama? Siete rimane alla fine. Si scende, no, arriva la prima pacchetta, arriva. Ma lì metto 20 euro, e mi va a metà, all'altra pacchetta mi arriva. capito? Metta a serbatoio. Bella riserva, sì, no. Ho capito. E vabbè, senti, basta per fare queste piccole commissioncine. Vabbè, no, io le metto sempre in pieno quando vado di cassa. Faccio in pieno. Sì, e lascio sempre due tacchetti così e poi faccio il pieno. No, a me mi fa la prima tacchetta e poi quando metto 20 euro mi sale alla seconda tacchetta, mi sale. Adesso che mi metto il serbatoio gioco, quindi non arrivo, non lo faccio scendere a più giù dalla tacchetta, perché sennò poi scatta la riserva e non voglio che inizio c'è lo fondo che si avrà fatto. Tutta la porcheria, sa, dopo già ci sono i filtri, ma succede così che se ne tira tutta la roba, gli avanzi che ci sono da serbatura. Infatti l'ultima volta mi ha controllato il filtro a gasolio, mi l'ha controllato e mi ha detto che era pulito e me l'ha lasciato. Ma lo controlla qua attorno quando mi fa il cambio dell'olio, lo controlla e vede se è sporco, se è pulito. Infatti se non c'è bisogno non c'è, la roba costa adesso, non costano più 10 euro, cioè in 30, 25. Sì, infatti, è così, 20, 30. Infatti c'è che si tende che mi forzano un conto, le iennaro, c'è che si tende, a chi fa di giambambi, due cose, io stesso fa i giambambi, che mi sono vicino alle ruote, i due perni dove sterza, che giungano, e poi la devo portare torna a farmi fare la convergenza, che la devo imbustare. Cercare di tenere che mi rabbozia e poi farmi il conto di quanto le devo dare. E non è mai che le faccio qui il fatto video. Ma le fatto che vi hanno viaggio buttata, mi pare me l'ha fatta in quattro volte, me l'ha fatta. Quindi lo devo pagare ancora. Siamo mi fai un conto. Ha detto, se non mi fai un conto, mi mangio i neati, dico arrivederci. Ti ha rubato, lì se non fuggire. Quando gli devi dare, ti ha rubato un conto. Ma no, io la pago ogni volta che vado, io ho subito, e vado dopo la mano. È quello che gli ho detto anch'io, fammi il conto subito e ti pago subito, ti pago. E no, non ho ancora fatto, ho poco tempo da... E vabbè, ma infatti come ti dratta all'altro, ti dratta pure a me. E ma poi se ti è famiglia, magari ti devo pagare, ma... E no, io voglio a pagare subito che va a venire da me dai fattori. Ecco cosa è. Certo, mi piace a me a pagare subito, mi piace. E anche se no dopo ti ripeti, mi dirà. Infatti, vabbè, gli raggio da Sadi, ho tanto baedo, chissà che non sia di 200 o 600 euro. E cosa hai fatto? Un bel cosa mi ha fatto. So che adesso ho questi due pinni, poi alla prossima mi devo raccontare le cose dello... la specie di stantuffo dello sterzo, che dove c'è il perno grande che scende, e poi quest'altro coso qua che tira e molla, non so come chi è. Ma il piantone dello sterzo? No, il piantone è grande, ce n'è un altro piccolo che va dalla... dove c'è il coso al snodo, da lì alla scatola dello sterzo. E si rompono sempre, anche nella Y, a questo difetto che si rompe sempre. Se 200 euro si può una mano, lo pagare. Ma a me non mi si è rotto, a me mi si è, si può dire, il giocami, ma me lo sento sullo stesso, me lo sento. No, a mia figlia gli si bloccava lo stesso, si faceva duro, è come se non ci fosse servostezzo, si bloccava così e alla fine non può cambiare, l'ho messo a seconda mano, l'ho preso. Lui zentri la seconda mano, non può costare 480. Però deve buoni originale, però deve buoni. È originale gliel'ho messo, non l'altra Y10 incidentata, è originale, è la nuova nuova. Oh, è meglio così. Da me già costa poco. Mi pare che costava 180 euro, mi pare. Siamo abbassato, ma non so quanto costa. Tu devi vedere, allora bisogna portarlo a codificare, togliere il codice vecchio, metterli nuovo, bisogna codificarlo, ripiazzarlo, è un casino, non è così, no. È un casino, ammetterlo. Fatta meglio, non aveva già detto, beh, prendilo, lo prendi e poi quando mi dici... quando vogliamo venire a farmelo, oh no, me la deve lasciare un giorno, perché vorrei smontare tutto sotto e è messo a posto, bene, non è una giabbidura, quindi è agito, mi sa di si arrangia due mogliere appigliati i bizzini, compagnali e appigliati. Ma lui c'ha l'officina o lo fa per lui? No, c'è l'officina, ti sto dicendo che c'ha cinque ponti dentro, c'ha. E lui aspetta adesso che ci liberi un ponte, e mi fa di venire una volta, mi fa di che bene, e poi la gente mi prepara un conto buro, così una sua volta ti arrego e ti la lascio. E se vuole fatto, meglio spendere, però essere sicuri, dai. Ma devo portare anche al carrozziere, la devo portare. C'ho i soldi. La porto al carrozziere, mi posso fare a cappotta e rubare a urti di Laridu. Mi posso fare. La Cocco che è bravo, che ti prende il resto. No, la porto da dove c'aveva l'officina prima, attaccato c'era il carrozziere, il verniciatore, ma aveva già fatto lo sportello, ma mi aveva fatto, me l'avevano educata e mi ha fatto lo sportello. Adesso ci torno ad andare e gli chiedo per quanto vuoi, tutto quanto. Vengo in una parte e me la posso fare, perché no, ci sta troppo sbiadendo sopra, ci ha pigliato il buco a cappotto, ci ha pigliato. La mia c'è, ma io quella che avevo prima è riuscito a trasparente alla cappotta, ma nella opera lo fa, dopo un po' di anni, l'unico difetto che fa è che riesce a trasparente, è il cielo interno, è scelto. Ti parlo che ce l'avevo tanti anni, 14 anni, roba così. Beh, io sono andato da Marella e gli ho rifatto fare il cielo. Mi pare 450 euro gli ho pagato, ma fa così. E poi l'ho portata al carrozziere e mi ha fatto tutte le parti che erano scrostate dal trasparente. Me l'ha fatto tornare nuova. No, io infatti glielo devo far fare così, devo far fare il paraurti che è nero, che ci sono appoggiati e mi hanno tutta scrostata anche, e più dove l'hanno messo lo stucco, se come ti sono appoggiati me l'hanno scicciata. E poi si è sbiadita nel sopra il colore, il trasparente si è sbiadito e quindi adesso me la devo far fare e voglio vedere quanto mi piace. Papà mi rubava la ultima, il rubezzo di sopra, eh? stava prendendo 400 euro, avanza sarà di più a farmi aggappottare il balaucchi. Quindi volevo fare così. Adesso c'è un preventivo in mano, il presente preventivo che ti ha fatto ti fa la stessa cosa. Ma no, prima la cappotta non c'era, c'era soltanto il bordo del coso, il bordo del cofano di dietro, il bordo di sopra, e ho fatto un coso rotondo, si è fatto. Ma aveva chiesto 400 euro, ma aveva chiesto. Ah, invece fuori cappotta. Se non sarà 400 più 4 euro, a meno che non mi piglia 1000 euro. Vabbè, mi ha preso 900 euro, però mi ha fatto tutta la cappotta e in più i montanti che ci sono nello sportello, che era il trasparente, era uscito. Ma l'ugine non ce n'era, solo il trasparente. Sta l'impiegato e ha risplussato, basta, tutto in... No, da me l'ho fatta, ho data la vernice perché c'è una specie di grigio scuro, però avanti si vede un grigio chiaro, si vede, hai capito? E quindi devo farmela per forza. Come è uscito trasparente, si è scurito la vernice. Sicuramente sì, e quindi me la voglio fare un buon cappotto, anche me la devo dire, come il motore è buono e cammina, e me la tengo così. Cazzo, se andiamo a comprare una nostra macchina, me ne incontro un po' di là. Tu non fai se comprare le macchine, come ti stavo dicendo, quanti chilometri c'ha? Quasi si può dire 193 mi pare, una cosa del genere. Poi il diesel non è nulla, il diesel è fatto e poi quando spunto e coso, se spunto in seconda muovi luci, passi lenta, ma da buoni, se ci che cosa amara, e cammina un bel. Cos'è il turbo? No, è diesel, non è turbo, però cammina. Consuma poco burro. Ma turbo c'è anche diesel, c'è turbo diesel o turbo a benzina? Cioè c'è la turbo a benzina, però va anche a gas, sempre col turbo. E cammina anche a gas, anzi forse cammina più a gas che a benzina. Se a gas si può andare, che è più basso, costa più poco il gas, che si può far andare. Invece a 1,69 euro lo sto mettendo. Vabbè, io metto gas buono, lo metto a carica perché c'ha il gas puro, però lo farò puro. Invece a Sassari, anche sulla Budinudi, c'è che sono gas misti e ti impregnano tutto l'impianto, si fa il catrame, come il catrame si incolla. Me l'ha fatto vedere Gabino, quello che fa gli impianti, come si fanno i filtri. Oh, certo, allora bisogna pulire, gas buono bisogna mettere, ma è quello di coso su WDVD, quello l'Agip, quello di su. È sporco, è sporco. Quello della WDVD io lo mettevo, mi ha intasato tutto l'impianto. Nell'altra macchina, e qua non mi ha fregato, qua me l'ha detto quello che fa gli impianti, mi ha detto qua mettilo lì che sei tranquillo, mettilo a carica o a conduttore se era nella zona industriale, che è l'unico che c'è questa zona che ha un gas buono. Loro lo sanno chi sono, quindi ti conviene andare sopra in chibi e nel burrito. Ma lo sai cosa mi ha fatto il sorpasso? Si è fermata la macchina, ha fatto e che si è sorpassato. Meno male c'era un po' di velocità, ce l'ho fatta rientrare, cazzo, se no avevo fatto un casino niente. Ed era questa valvola che praticamente si blocca con questo catrame che va da benzina a gas, no? Si blocca e non fa passare le gas e le benzina. Deve essere che sono di quelli gas sporco che gli portano. Non va niente, da un sacco di gente ho sentito quello dalla Budivud. Ho sentito un sacco di gente che non ci andavano più lì. No, non conviene. A me mi ha fatto vedere, Giovino mi ha fatto vedere il gas che mettono qua in città, il filtro del gas che mettono qua in città e il filtro vino. Metto il primo, non sarebbe manco da cambiare, pulito, non c'è nulla. A parte appena appena di sabbiolina come c'è il fondo nel coso, ma è poca roba. Non sarebbe manco da cambiare, no? Non cambio perché da me non proprio non cambiamo, ma guarda il confronto, guarda la macchina là su Cattrane, cioè. E loro hanno un prodotto che praticamente lo spruzzano e si scioglie. Oh, quindi sei così allora. No, io ero intenzionato a Ciambammira e pigliarmi una benzina, però a gas, direttamente già a gas, ma volevo prendere. Ma già ci sono. Adesso quella che copre di più è la Dacia, che costa di meno di tutte le macchine, e va bene perché c'è molto il ridotto. Sì, però meglio non mi ha detto, ma cosa se la prende a fare se non la usa molto, mi ha detto. Ma conviene tenersi quella che c'hai, boh, che diesel, almeno con quella va. Cosa si aggiù va a fare? Mi ha detto. Se loro li dai in aereo, guarda, ma con tattina, no? Lo sai che la macchina una volta che c'ha chilometri comincia a romperti le scatole, a cambiare questo, a cambiare l'altro, alla fine ti buttare giù la sua macchina. Non te l'ho già detto, che ti sei componendo un montone di ragazzi, sei componendo, no? Certo. E di là in chibi, di là in cosa, in cosa, in chi, due che d'altro, che? Ma giusto, ma che direbbe se vedi il ricambio? Quando, quanti anni ce l'ha quel coso lì? Cinque anni consumano. Certo, ma loro non sono buoni i servizi, che non dovete neanche consumarsi. E allora noi non lavoriamo. Lo fanno tutto con scopo. Il meccanico mi ha detto la cicla di distribuzione prima ti durava un bene, adesso non è più così. O li fai 100.000 km, ma li devi fare entro 5 anni. Se non li fai entro 5 anni, dopo 5 anni la devi cambiare lo stesso, perché la gomma è una gomma diversa, è più debole, capito? No, meno male, c'ho la catena io, quindi mi ha detto, no, devi fare i chilometri con chi c'è catena, certo. La catena è diversa, non si spezza, se la catena diventa rumorosa e basta, ma la ciga se si spezza ti punta un valvolo, ti fa un casino al motore che lo verrebbe a dire, meglio che ce la apri avanti. Infatti, quelle sono le cascaie, è l'unico che c'ha la catena, invece le altre no, non ce l'hanno la catena. Quelli a benzina sono con il con non ce l'hanno a catena, i cascai, non ce l'hanno. Ce l'hanno a cinghia, ce l'hanno. Invece il diesel ce l'hanno a catena. E prima le facevano tutte così a catena, adesso ci siamo evoluti e stanno facendo così in gomma, quindi si fascia, fai danni e fai guadagnare i mercati. Infatti il mio genero sulla Citroen va cambiata la cinghia, va cambiata la cinghia, anzi due cinghie ma va cambiata, quindi anni due. Va fatto il cambio d'olio, tutto l'aveva avuto a posto. Poi mi sono rotto le scatole. Poi mi la giambata, la gioventù da ISO 3.000 euro. Cosa attenta? Un paio di mesi e si è schiantato e si è avuto a guardare lì, si è avuto a distrutta, tutta canta. Adesso tu sei già pagata a te. E non fare ancora l'errore che ho fatto io, che nella nostra session Vego gli avevo messo tutte e quattro le gomme nuove, la batteria nuova. Poi gli avevo fatto il tagliato tutto canto. E dopo me la volevo ottenere, poi mi ha fatto un altro difetto, mi sono rotto le scatole, andavo a accelerare e non accelerava più, si bloccava. E l'ho portata a Portottore, se no per non l'ha ricompreso tutta. Invece l'ho portata a Sassari, quello che l'ho venduta io, gliel'ha fatta in un giorno, 80 euro, ci ha cambiato un sensore dell'acceleratore. Accelerava, niente, il bloccatore non hanno le apparecchiature come quelli che hanno qua a Sassari, ecco cos'è. E anche la gente ti aspetta sicuramente, perché lui ha detto sì, sarà un sensore, ma bisogna vedere quale, uno costa 80 euro, l'altro mi pare 200 e passa, li cambiamo tutti e due, non si parla più, no? Non è così. Se io devo già magari di cosa fattera che deve finire intorno a 260 euro ballato un muro, forse le 80 euro che spendo per fare un po', no? L'ha portata a Sassa, quello che gliel'ho venduta, adesso sta ancora girando, io l'ho venduta con 300.000 chilometri, no? L'ha presa uno, poi ha visto che si pagava troppo di assicurazione e l'ha venduta. L'ha venduta questo qua, questa ragazza l'ha venduta un altro, prima è andata in continente, ha fatto 400 km in un giorno. Immaginati se lavora, che sa che è un salotto, non si dà bizzarre in mano. Andate a Cagliari, gli manca bizzarre per il giorno. E poi questo qui, questa ragazza se l'ha venduta, se l'ha cambiata, se l'ha venduta un altro e sta ancora girando. Però non ha ricavato un impianto del gas, perché dopo 10 anni l'impianto del gas bisogna cambiare il bombolo, invece o non c'è il vassoio, o lo volevo fare, l'ha tolto. Certo, mi compreso, l'hanno fatta andare a benzina. Vabbè. Sì, no, io con questa qua viaggio 5 anni di raggio, anzi 6 anni ha fatto, a chi sanno ha fatto 6, no, l'anno scorso ha fatto 6 anni, quindi a chi sanno fa 17 anni. Sì, vabbè, no, va bene, a aprile devo fargli fare cosa, la revisione devo fargli fare, quindi, e più devo pagarmi un rullo, 254 euro. Così tanto pago, io pago 230, mi bollo, pago così, poi di assicurazione mi viene 200 lo stesso ogni 6 mesi, 400 euro all'anno, però c'è anche caratteristiche. No, la mia viene, mi hanno fatto 206 euro, mi hanno fatto per l'assicurazione. Adesso la cosa non lo so quanto mi deve fare, se mi fa 200, altri 206 euro. Ma chi che mi ha fatto la cosa era 240 euro era, no, 440 euro ogni 6 euro all'anno. E le macchine sono diventate come figli, volevano anche tenute, e fai tagliare, e fai questo e fai l'altro, sono come figli. E infatti è così, infatti ve la giuro, mi viene, se non vi da farmi un conto, facciamo a me queste due cose, anche se no lo vedi più di là. Purtroppo è così. E poi se incappi male, che compri la macchina nuova, se incappi male che è difettosa, cioè sempre perché devi concessionare, se la carta scade la garanzia, dopo devi pagare. Fa fortuna, mi ha baidato a me ieri, quando mi ho portato in officina, era in garanzia da voi di 15 giorni, ma ci hanno dato un po' di cose a sotto, braccetti, poi mi ha cambiato questi perni vicino alle ruote, lo sterzo, insomma un bel di cosa sotto mi aveva giambata. Poi l'avevamo portata in officina, in questa officina qua, c'è il tappo della distribuzione che perdeva olio, ho portato cosa, gli ho messo il mastice così, se ne ha bisogno me Gennaro, e mi ha detto, me l'ha fatta lui, me l'ha fatta, ho dovuto aspettare, ho dovuto tenere una settimana ferma, e ho dovuto ordinarmi il tappo del coso. Più della metà me l'ha pagato questo, che era in garanzia. Allora fa, mi dai una giubba che da io. Da lì mi ha cambiato la catena di distribuzione, tutto in garanzia. Ma ci è andato. Ci ha pagato da chi tu. E io l'ho comprata mia figlia. Siamo andati a farci un giro, si sentivo questo odore di benzina, ho detto, ma non è fermati, che la controllo. Non c'è niente, non c'è niente, io sento odore di benzina, io non le sento, io sento odore di benzina. A un certo punto il GP mi ha rubato per bagnare la macchina, perché l'avevo per comprare. Sto guardo e c'era tutto pieno di benzina, la macchina sotto, e credo che me la bomba è fasciata. Siamo andati dal meccanico, che era nei giorni di festa, c'era aperto un meccanico solo che non siamo mai andati da questo meccanico. Siamo andati, l'ha controllato e detto, c'è la pompa da cambiare, la pompa della benzina, l'ha controllata col computer, c'era scritto sostituire pompa benzina. Aggiungiamo, ha visto che mi era venduta, mi ha detto fatti trovare perché mi devi pagare la pompa della benzina, che mi ha dato la macchina, tu me l'ha data a riserva, sono andato a pulire la benzina, le vasciglie, invece che mi dia a un certo livello se ne è parato. Io del villa, avevo le macchine usate nel Palazzo Blu, lì l'avevo presa, l'ho fatta via a Gennaro, ho messo motore, gatta, una bomba, e tutto in coro, e tutto il resto che c'era l'ha pagato tutto edo. E poi adesso ho cominciato ad arrivare i difetti. E mi ha detto, queste sono cose che vengono cambiate ogni 5 anni. Andiamo. Certo, dove si cambia ho fatto tutto. Beh, infatti, perché la gente che c'è su si la cambia ogni due anni la macchina? Perché per così non gli dà problemi, c'è la macchina nuova, sempre. No, sono quelli che si possono scaricare l'IVA. Io per dire un amico che ha la moglie che ha la 104, scarica l'IVA e la paga la Hyundai, la macchina. Sì, infatti, la pagano qui, che c'è la 104, la pagano la metà sì, la pagano. Invece di 26 la pagano 16 mila euro. Comunque già, se uno la può cambiare è un po', ma se uno deve pulire il rapido va a pagarla lui, lascia bisogno. Sì, ho bisogno di derrati, paghi da macchina, 6.500 euro d'anticipo, e d'altra 4.500 euro d'anticipo, e 36 rate da 256, certo, 36 rate, e che non ne avviene più di bagarla. E va infatti. Conviene tenersi con la chiesa, va bene, ma no, perché a cambiarla c'è sempre tempo. La mia c'ha lo stesso 6 anni la macchina, ma è un giuliettino, non va nuovo. Infatti mi faccio fare la capota con il paraurti, ci mettere bene un poco, poi usiamo questa cosa, non ho così, gioco tranquillo, bombe di poco, gioco tranquillo. Una volta che è fatta, ma solo che è tutto pieno di voci, non basta prendere niente, ragazzi, è tutto pieno di voci, in una via. Ma lascia così, quando vuoi la prendere niente verso Sant'Orso, la vedi, per andare verso Sant'Orso. Io vado al centro cane a prendere la carne per il carico. Cazzo, in chi vedi tutti i voci, ne cassi uno e ne bigli due. Così faccio io, ne cassi uno e ne bigli tre. Che ve ne sono belli di voci. Cazzo, va bene, la gente, cazzo. Ma poi forse tutta la carriera, tutta la... Gira, va, faccio un bonto. E lo sarà... Vedi se aggiungiamo un bando. faro comune. Sì, se lo mirano i braccetti a volte tutto, se lo mira tutto questi posti grossi, poi non sono, sono forse broccoli, non sono fossetti, non sono forse broccoli, che vai, buh, e ti faccia lì. Con che tre voci, chissà, che non passano. Mi pare che si accantona la macchina in prima bicicletta. E adesso se prendi un po', se ti rompi la moto, chiami il mio urbano e tiro in borsa. L'altra volta io ho chiamato e mi sei girata una ruota. Quella di sinistra c'è un po' dritta, l'altra mi si è girata a 30 robusso. Oggi siamo a tre vigili, ho chiamato mio genero che ero vicino quasi da lui. Dopo c'è quello dei mobili usati, come ti si chiama? Portobello, chissù. Vado di fronte a quello lì, mi si è bloccata lì. Ma io la ruota mi se ne esce da fura. Ah, Giuseppe, da me io no, ma aspetta che chiamiamo il vigile. Sono giunti i vigili, mi hanno fatto tutte le fotografie, più vicino che ho fatto io. E mi ha rimborsato il comune, mi ha rimborsato. Io ho pagato un meccanico, dice la cifra è questa. E mi hanno pagata il comune, dell'assicurazione. Qualcosa dovremmo pagare, perché la competenza è loro, se le strade sono messe male, è perché non le fanno aggiustare, perché non costerebbe nulla. Lo mangi l'asfalto, c'è quel macchinario che lo mangia e lo rifà nuovo, cosa li gusta? Sino a cosa sono arrivati? Come ti si chiama? Dietro dove c'è il lavaggio? Se non lì sono arrivati, a voi si soffende, dobbiamo iniziare, 10 mesi, però pagano tu bari, non sono passati di là. E non pagano, che gli operai là. 6 milioni avevano stanziato, che dovevano aggiustare anche i lampioni, dovevano aggiustare, ma mi pare che questi 6 milioni si sono usciti subito. Ma lì mi pare che ci sia il consorzio di Pedranita che deve pensare. Il comune ha preso tutto il comune e ha stanziato 6 milioni E comunque non sono strade da poter percorrere così, perché ti facci tutta la mano. Se stessi una parte c'è un posto, se c'è l'altra ce ne sono altre tre, non sei mai capibile. Poi scartando i fossi ti si di qualche macchina. Pochissimo, ho fatto un'altra cosa io. Io che mi non vi passo più. E passo da Cogio, dall'altra parte di Predanieda, proprio hanno asfaltato, e lì arrivo fino al pezzo della curva e poi adesso va nel ristorante dove c'è il barbiere e mi dice che con la stradina niente fuori per andare al 131. Ma lo sai così, se io devo andare a Centrocani per forza devo fare quella strada, io vado a Centrocani a comprare la carne, quindi faccio quella strada. Non vi bacio più noi, io adesso arrivo sino lì alla palestra e mi vengono i chibi, a me così nei chibi forse non veni giù, certo se non continuo a fare sciammina ci faccio i chibi. I braccetti infatti, i braccetti sono le prime cose che fanno, non potevi sfarfallare. Infatti, aveva cambiato, si doveva cambiare i braccetti e questi perni, invece mi ci hanno dato solo i braccetti. Allora se devo durare questa sera a farmi fare, come me li cambia, devo portarla al gommista a farmi fare la convergenza. Perché facendo il collavoro va fuori convergenza, sì. Infatti adesso la prossima che mi dice c'è da cambiare i braccetti, e mi cambi i braccetti e quei perni mi cambi, guardi se ci sono sballati, mi giochi tutti e due. Dai, io ti saluto, dai, che devo portare giù il cane, tu l'hai già portato. No, l'ho portato un mese, l'ho porto. Mm. 9, 9 e mezza, una cosa del genere. Vabbè già, ci sentiamo, dai, alle prossime. Tanto devi prendere il pastiglio prima adesso, quindi non fuggi. Buon abbondato, grazie per il QSO, dai, ci sentiamo, buona serata. Sì, ok, ciao già, stammi bene. Aspetta.